Bene, buonasera a tutti. Grazie di essere qui così numerosi. Possiamo... Elena, c'è posto davanti. Molte sedie sono vuote. Molte non proprio, non proprio molte, ma alcune sedie sono vuote. Se volete accomodarvi, grazie. Bene, con grande piacere che partecipo alla presentazione del libro di Chiara Bonifazi dedicata a Linda Bimbi e che molto opportunamente è stato sottolineato, sottotitolato Una vita, tante storie. E direi che come rappresentante della Fondazione Basso sono anche orgogliosa del fatto che una di queste storie sia grande parte della storia di questo luogo, grande parte dell'attività che qui è stata immaginata, programmata, organizzata e svolta, dapprima per l'impulso del suo fondatore, Nelio Basso, poi per proseguirne e valorizzarne l'insegnamento e l'eredità. È infatti una delle storie di Linda, il suo impegno, che ha fatto seguito a un occasionale e fortunato incontro con Lelio Basso nel lontano 1972 alla Corsia dei Servi di Milano, impegno nella complessa organizzazione delle tre sessioni del Tribunale Russell II sulle feroci repressioni delle dittature militari in America Latina, quindi per la proclamazione della Dichiarazione di Algeri sui diritti dei popoli, nella Lega per i diritti e la liberazione dei popoli e nella Fondazione Internazionale Lelio Basso. Dopo la morte di Lelio, Linda ha collaborato alla istituzione e all'attività del Tribunale Permanente dei Popoli e nell'ambito della Fondazione Internazionale, poi trasformata nella Sezione Internazionale della Fondazione Basso, Linda ha coltivato anche quella che è stata forse la sua più costante vocazione, quella di educatrice, istituendo un corso di perfezionamento sul diritto dei popoli, collaborando con la scuola napoletana sul diritto dei popoli e infine costruendo una importante scuola di giornalismo. Straordinaria e irripetibile è non solo la personalità di Linda, ma la sua intera vicenda umana, spirituale e politica. Un'altra delle storie della vita di Linda, la prima, resta per gran parte ancora misteriosa ai nostri occhi, è quella che ha indotto Luciana a domandarsi cosa è accaduto nella mente di una giovane donna appartenente a un ceto privilegiato di una delle più fortunate regioni d'Italia, la Toscana, studentessa all'Università di Pisa, compagna di idee di un gruppo di intellettuali di sinistra, aggiungo una che ricorda le sue origini illuministiche, perché abbia a un certo momento lasciato il suo paese, si sia fatta suora, sia andata a finire in Brasile. Certamente determinante per questo esito è stato un altro incontro, anch'esso casuale e fortunato. Infatti, dopo la laurea, Linda trovò lavoro come insegnante di greco nel Collegio delle Oblate dello Spirito Santo e qui conobbe Maria Elena, la direttrice. E da un iniziale incontro-scontro nacquero dialoghi profondi, questioni esistenziali, da cui si generò una svolta nella vita di Linda e un sodalizio destinato a durare per tutta la vita. Più comprensibile per noi è un'altra storia di Linda, anche perché ampiamente narrata in questo volume e prima ancora nelle Lettere a un amico, un volume del 1990 che raccoglie lettere ricche di racconti di vita e di riflessioni indirizzate da Linda a Lelio Basso e significativamente intitolato Cronache di liberazione al femminile plurale. Si tratta del percorso che portò Linda, giunta in Brasile nel 1952, novizia nella congregazione delle Oblate, a contatto con le terribili disuguaglianze di quel terzo mondo, ad aprirsi alle grandi problematiche del mondo, a costituire gruppi di riflessione e politiche educative innovative che portarono la comunità, che Linda coordinava insieme a Maria Elena, a cambiare lo sguardo sulla realtà, a sentire la costrizione di una realtà ecclesiastica che corrispondeva sempre meno alla loro mutata sensibilità. Da qui è maturata la decisione dell'assemblea della comunità di separarsi dalla congregazione e di formare un gruppo autonomo che non aveva più alcun legame ecclesiastico. L'assistenza fornita agli oppositori del feroce regime militare che si era instaurato in Brasile fin dal 1964 mise in pericolo la stessa vita della comunità e delle sue componenti, che si divisero in piccoli gruppi per mescolarsi alla società e trovarsi un nuovo lavoro, ma furono costrette poi ad abbandonare il Brasile. E qui prosegue in Europa e infine a Roma in Assisi ancora un'altra storia, quella della comunità delle brasiliane, che Ernesto Balducci ha definito una comunità dell'esodo, disobbediente per obbedienza, infedele per fedeltà, come quelle minoranze abramitiche di cui parlava un loro amico e protettore, Dom Helder Câmara, minoranze il cui compito è di lasciare la casa paterna per andare verso terre ignote. Lasciando il velo senza rompere la dedizione totale al Vangelo, queste donne, ha scritto Balducci, scoprono di dover compiere non una, ma più rivoluzioni. E una dopo l'altra cadono le barriere, quelle erette dal maschilismo, quelle erette dall'ideologia religiosa, quelle erette dalla cultura borghese. Ecco, di tutte queste storie vi parlano oggi i nostri relatori, che non hanno certo bisogno di presentazione e che tutti hanno condiviso in grande parte l'esperienza, almeno quella della italiana, della vita di Linda. Seguiamo l'ordine alfabetico e do la parola per prima a Luciana Castellina. Grazie. Ma io grazie ho già scritto, quindi l'unica che posso dire due parole, loro ancora no. Tocca a loro prima. Tocca a loro prima. Sì, vabbè, allora non conta questo ordine, e allora devo passare il microfono a Enrico Pugliese. Grazie. Ops. Avevo io che ci fosse un accordo. Mi ero preparato a essere ultimo. Ah beh, allora qui andiamo. Non ce la faccio benissimo. È da un mese che sto gironzolando intorno a questo libro. Scusami. E intorno a pensieri e ricordi di Linda e delle compagne, non so se si può usare, delle sorelle, va? Non suore ma sorelle, come largamente specificato. Ecco. Allora, e devo dire che diciamo, è stato molto importante per me questo e mi ha fatto ragionare. Allora, come è fatto questo libro? Questo libro racconta la storia di Linda anche e soprattutto attraverso pezzi di interviste condotte in diversi momenti a Linda stessa. Quindi noi sappiamo molte cose di questa Linda proprio non più giovanetta, che in realtà rivive pezzi del suo passato, di un passato che poi aveva raccontato in forma molto organica in un libro precedente, che in realtà ha un'altra autrice, che è esattamente Linda Bimbi, che sono le lettere inviate a Lelio Basso. Intendiamoci, sono lettere particolari, perché sono lettere con una data. La data è tra il 72, 76, 78, ma che riguardano tutte un periodo precedente. E poi ci arriva il libro tuo, eh? Ed è molto interessante, perché è un po' come mi ha ricordato Lo schiavo del manoscritto di Amitav Ghosh, perché c'è un presente, Linda che è ora a Lisbona, ora a Lovanio, ora è in Brasile, non più in Brasile, è, insomma, in molti posti dove può girare libera, e contemporaneamente però c'è il ricordo degli anni precedenti, di quegli anni però molto molto importanti, che sono l'esperienza brasiliana e soprattutto l'esperienza brasiliana sotto la dittatura. Quindi, il libro di Chiara Bonifazi è costruito diversamente e ce la racconta tutta la storia di Linda. C'è il padre laico che capisce con difficoltà la scelta di Linda, c'è una mamma più comprensiva sostanzialmente, c'è quel contesto familiare, diciamo, colto, intellettuale, eppure benestante di Lucca, e poi ci sono, cioè no, c'è il maestro, poi ci sono anche gli amici, alcuni più stretti, c'è Mazzino Montinari, che poi, diciamo, noi troviamo sempre associato al nome di Giorgio Colli. Allora, Giorgio Colli era il loro professore al liceo, gli studenti erano Mazzino Montinari, una serie di altri personaggi che poi diventano negli anni successivi al liceo un gruppo molto coeso di giovani comunisti. C'è Clara Valenziano, che molti di voi hanno conosciuto come importante giornalista di Repubblica, una compagna comunista, molto coraggiosa tra l'altro, insomma, come dire, Valentino Parlato, che fu il suo, fu la prima moglie di Valentino Parlato, ricorda quando la sua irresponsabilità porta a San Paolo, insomma, diciamo, nel 1960, ecco. Diciamo, c'è questo gruppo, sono gli allievi di Colli, che si formano con Colli, e tra questo c'è anche Mazzino Montinari, molto molto amico di Linda, il compagno degli anni di liceo, che poi diventa quello di Colli Montinari, le opere, la cura delle opere di Vicendo. A un certo punto questa giovane comunista di questo ambiente, con questi amici, questi compagni, insomma, come dire, decide di farsi suora. E c'è naturalmente il rapporto con Maria Elena, cioè Maria Elena è già suora, però in Brasile arriva prima Linda e cominciano a, come dire, a portare avanti questo intervento educativo. Credo che quando Chiara alla fine del libro le chiede un commento finale, ma tu come ti senti? Ma io in realtà devo dirlo, si vergogna quasi un po' a dirlo, io mi sento soprattutto un'educatrice. E decidono di aprire queste scuole. E queste scuole hanno delle difficoltà naturalmente, perché arrivano a un certo punto, come dire, cioè prima le difficoltà organizzative e poi piano piano loro che vogliono cambiare il mondo secondo il Vangelo scoprono sempre di più, pur secondo il Vangelo probabilmente, che ci sono le classi sociali e che quindi in realtà delle cose che loro stanno facendo in realtà vanno bene, molto bene per le fanciulle della buona borghesia di Belo Horizonte, per esempio, ma questo lascia fuori un po' di gente, insomma, no? Che pure merita di essere educata. E allora allargano la platea, allargano la loro, come si dice, il loro punto di riferimento, si spostano sempre più, come dire, giù dal punto di vista delle classi sociali, si avvicinano sempre di più alle favelas e avvicinano sempre più le favelas e i ragazzi, i bambini delle favelas, che poi dopo arrivano, sono tanti, giocano, mangiano, e questo rende pure difficile la gestione della scuola. Ma oltre che a renderla difficile dal punto di vista organizzativo, come si racconta nel libro, in realtà c'è qualcosa di molto più importante, che è il tipo di rapporto con le autorità. Progressivamente, dopo il momento entusiasta, dopo gli anni di Goulart e poi dopo il momento entusiasmante, purtroppo ingenuo e finito malissimo, di Juscelino Kubitschek, comincia, c'è il golpe dei generali e comincia effettivamente la persecuzione. Naturalmente, come dire, il clero, come sempre in questi casi, è certamente diviso, qualche vescovo che viene mandato lì a controllare, insomma, scopre che è davvero molto interessante la loro cosa, si siede in un angolino, ascolta tutto interessato e, come dire, non trova da ridire, praticamente non si rifiuta di controllare sostanzialmente, e qua un altro invece controlla e soprattutto controllano le autorità. Qui comincia poi la persecuzione, che è stata dura, e Linda, e questa la devo dire a proposito di sore, non suore ma sorelle, chiacchierando una volta nelle visite che facevamo alla comunità, ero con mia moglie e le chiediamo com'è che torna in Italia, insomma, vabbè, lei racconta un po' la storia, ovviamente non indulgeva molto sui racconti che la riguardavano personalmente, però qualcosa la dice, dice poi dopo io sono arrivato travestita da Monachella. Mia moglie dice, ma scusa, ma tu non eri, ma, sì, dico, ma che c'entra? Perché in realtà il discorso è che lei era, da Monachella era travestita e in una delle ultime battute che lei del libro dichiara, c'è il ricordo, c'è la caratterizzazione della loro comunità, sono suore o non sono suore? No, non sono suore, sono sorelle. Sono sorelle in un progetto. Quindi il libro, da questo punto di vista, va avanti e racconta l'intera arco della vita politica, della vita pubblica, e appunto di una vita pubblica intrecciata con la vita privata. Poi ci sono delle cose che si dicono con basso, che sono stupefacenti. Io pensavo che il personale politico l'avessero inventato all'Icola nel 76, mentre invece Linda e Lelio Basso ne parlavano già agli inizi degli anni 70, insomma, cioè che insomma, come dice, usavano altri termini, etica per esempio, insomma, no, parola che poi scompare, non molto fortunata, cioè, e non è stato un bene, insomma, poi sicuramente. Allora, il libro ci porta fino ai giorni nostri e quindi c'è una Linda che non è solo contenuta qua dentro, perché qui mancano gli antecedenti e manca ciò che è successo dagli anni 80 in poi. Il libro del 90 ha avuto una sua gestazione, le ultime lettere sono, diciamo, della seconda metà degli anni 70. Gli anni 70 in realtà, c'è passato, è morto il 78. C'è passato parecchio tempo perché fino a che il libro non ha visto la luce, e nel frattempo, diciamo, c'è stato qualcosa di molto molto importante che qui è raccontato, perché è il periodo del quale vi parlerà Gianni Tognoni, che è il periodo sostanzialmente del Tribunale Russell, di cui io so poco sostanzialmente. Io personalmente dico una cosa che non interessa a nessuno, ero nel comitato dei garanti dell'Issoco all'epoca in cui il compagno Pertini non era proprio mobilitato nel tentare di far approvare la fondazione, eccetera, e parlai più volte con Lelio Basso di queste cose. Poi dopo, per motivi, diciamo, miei di vita, pur seguendo sempre l'attività della fondazione, non ho partecipato alla vita attiva, fino a che una volta ho ricevuto una telefonata dalla dottoressa Bindi, e mi dice che hanno un finanziamento per studiare il lavoro schiavo in agricoltura. E dico, beh, tema molto interessante, io non credo che esista il lavoro schiavo in agricoltura, esistono forme gravi di sfruttamento, ma è bene che alle parole si diano significati effettivamente corrispondenti a quello che, insomma, intendono denominare, eccetera. Gli racconta, contentissima. Ora si fa un gruppo di ricercatori, tutti sottopagati, i giovani, io ho pagato zero, ma comunque, e facciamo questa ricerca che poi pubblicammo insieme a Francesco Carchedi, che divenne pure lui molto amico di Linda e delle sorelle, delle compagne, e insomma, così io mi avvicinai progressivamente alla Fondazione Internazionale. Nella Fondazione invece Basso Issoco, in realtà c'erano invece tutti i miei amici, gli storici, le storiche e compagnia bella, però diciamo questo mio avvicinamento avvenne su questo. Dico questo perché questo era un pezzo nuovo di vita, cioè lei aveva comunque necessità di esprimere concretamente questo bisogno di intervento, di cambiamento, e la cosa si esplicita anche con il corso di Napoli in collaborazione con l'Istituto di Studi Filosofici, e soprattutto questa scommessa incredibile della scuola di giornalismo. La scuola di giornalismo, Torre Alta, c'è, non lascia nessun diploma utile. Conseguentemente, questa follia che li ha portate in Brasile, oppure diciamo anche la follia di di basso, di non aver paura di niente, di andare avanti, spinto dalla scelta politica, ma anche dall'etica, si trasmette benissimo ai giovani. Quindi loro vengono in un posto, vengono la mattina, fanno lezioni, fanno i compiti e poi dopo prendono un non diploma. Hanno fatto il giornalismo, la scuola di giornalismo alla Fondazione Bassi, perché vengono, e beh, insomma, come dire, diciamo... No, poi dopo hanno pure ragione, perché ogni tanto tu vedi, trovi qualcuno che lavora alla radio, trovi qualcuno che lavora alla televisione, poi c'è Battistone che ha fatto una recensione un po' con la mano sinistra, insomma, del libro diciamo che presentiamo stasera, ma che ha fatto dei servizi meravigliosi dall'Afghanistan, da molte parti del mondo, cioè questi qui gliel'hanno insegnato, glielo sanno insegnare davvero il mestiere di giornalista. Non so se quando fu creata la scuola, non so se è ancora questo il suo sottotitolo, era Scrivi di diritto. Insomma, Scrivi di diritto era un gioco di parole, potete immaginare, scrivi bene, scrivi di diritti, e però impara anche a scrivere bene, perché Torre Alta, e poi all'inizio c'era pure Locke, che era un molto, come dice, pertinace sul controllo della qualità della scrittura, era uno che quando sentiva dire le toghe in un articolo, no, per dire i magistrati, si infuriava perché appunto le parole devono... Allora, quindi per farla breve, insomma, questo libro di Chiara ci permette di conoscere l'intero percorso di vita di Linda e, come dire, sottolinea molto la vita della comunità. Ecco, sulla comunità ci sono delle cose già nelle lettere a Basso, ma ancora, come dire, la comunità nelle lettere a Basso è ancora da poco a Roma. E io dico da poco, magari sono sembrati molti quegli anni, che erano, quei due o tre anni negli anni 70 sembravano molti. Visti mo a 30-40 anni di distanza sono niente. E quindi c'è tutta la vita della comunità, cioè si va ad Assisi e non mi ricordo a che pagina è quella bella citazione di quando arriva l'ennesimo prete, poi arriva sempre un maschio a controllare, arriva l'ennesimo prete e gli dice: voi che fate? Allora il poverino si aspetta una grossa disputa teologica, allora siete monache, non siete monache, pensate, pregate, non pregate, dice, no, noi cuciniamo, uno è indicato qua, uno lavora qua, insomma, gli danno una non risposta perché loro hanno scelto l'anonimato, cioè hanno scelto di essere come la gente, ecco. Allora, questo libro mi ha fatto molto pensare a Linda, ha fatto pensare anche, vabbè, Luciano lo cita nell'introduzione, che noi andavamo a qualche volta a colazione da loro, e io mi ricordo che una volta, subito dopo Natale, Capodanno, io non ero andato a un invito precedente, allora andai a portare una bottiglia di champagne francese, come fanno tutti i cafoni, insomma, quando uno arriva, eccetera, eccetera, allora la porta o non la porta, eccetera, e Maria Elena, che aveva già la sua età, probabilmente aveva l'età che è Linda ora, volle berla subito. Le compagne, mi ricordo, Monica e Ruth, erano un poco perplesse, e invece la cosa si fece, e questo sono i ricordi. Prima di concludere, però, io volevo dire alcune altre cose che non sono e non dovevano essere comprese nel libro di Chiara, perché sono comprese in quest'altro libro, ma che però, siccome parliamo di Linda, in un qualche modo vanno ricordate. Ora, in queste lettere, è la cosa, tra l'altro, che sicuramente c'è già tornata Elena, ma sono convinto che ci torneranno anche gli altri relatori, è l'introduzione di Ernesto Balducci, che spiega bene chi sono questi personaggi. Allora dice: che diritto io di fare questa prefazione? Vabbè, la solita sparata, anche un grande uomo deve fare la sparata, diciamo, di falsa modestia. Che diritto io? Allora dice: il diritto mi viene innanzitutto alla verità profetica che qui si narra. Un lento e sofferto esodo dall'istituzione conventuale alla comune città degli uomini, da leggere come una metafora della transizione epocale in cui la Chiesa è coinvolta. E poi dice, questo libro, che sono lettere, chi è che le spedisce e chi è che le riceve? La mittente è una donna che ha consacrato interamente, senza ritorno indietro, la sua vita alla causa del Vangelo, che è ormai per lei la stessa causa dell'uomo. Il destinatario è un ateo professo, anche lui senza ritorno indietro, e tuttavia a tal punto impegnato nella causa dell'uomo da trovarsi come apolide nel quadro della vita politica del suo paese per questa semplice ragione. Le sue scelte partitiche restavano, una dopo l'altra, sopraffatta dalla preponderanza della passione etica, in una inquieta e creativa ricerca di punti d'appoggio per una rivoluzione davvero universale. L'universalità è l'altra cifra dell'impegno di Linda, che si concretizza proprio negli anni del Tribunale Russell e soprattutto negli anni più eroici. Veramente, come dire, quando uno pensa quante scommesse, non la voglio menare sul triste, insomma, quante scommesse sono state perse, che cosa significava? Credo che all'ultimo, praticamente, proprio nell'ultima lettera, Linda dice a Basso, vabbè, poi dopo, tu vedrai boom again la settimana prossima, eccetera. Cioè, tutta, non so se l'illusione, la speranza di Bandung, è una cosa che noi in epoca di ISIS non riusciamo neanche a immaginare. E poi c'era questa pretesa dei tribunali, tribunale insomma, che giudicava i crimini dei dittatori, dei regimi e quindi anche dei capi di Stato, dei capi di governo, eccetera. E in tutto questo si muovono Linda e Basso. Chiara racconta com'è che è nata la cosa, l'incontro alla corsia dei servi, eccetera. E questa donna, che è sfuggita alla persecuzione, eccetera, gira il mondo e racconta, mentre sta girando il mondo, perciò citavo prima e ho finito, Amitav Ghosh, perché Amitav Ghosh fa lo stesso nello Schiavo del manoscritto, fa questo lavoro. Racconta la storia di questi personaggi intorno all'anno 1000 sostanzialmente, tra Aden e l'Egitto, e lo intreccia tutto con lui che sta facendo il dottorato e tutto quello che gli succede attorno. Siamo intorno alla guerra, siamo prima della guerra del Golfo, quindi dove tutti quanti vanno verso il Golfo, da tutti i paesi arabi poveri si parte e si torna come gli italiani andavano in Germania e tornavano con le mani, con le macchine tedesche piene di mercanzie, eccetera. Quindi Ghosh racconta quella sua contemporaneità e contemporaneamente l'alterna con l'oggetto della sua ricerca. La stessa cosa fa Linda, tra l'altro con una capacità letteraria stupefacente, e questo è una delle cose che mi ha stupito di più. Io avevo letto delle lettere funzionali, delle missive organizzative di Linda, quindi, come dire, delle lettere con la L maiuscola, non l'avevo mai lette. E queste sono lettere di grande cosa letteraria, in cui praticamente si racconta di tutto il mondo e si incontra tutto il mondo che conta a sinistra. Anzi, e qui concludo, tra l'altro facendo la critica al libro, quando si presenta un libro poi... in realtà la cosa bella è che ci sono tutti questi rapporti con tutti questi nomi che sono stati i nomi della... come dire, del grande impegno democratico, rivoluzionario, a favore del terzo mondo, a favore dei popoli oppressi, che sono tutti lì. Domani vedo, che ne so, Sartre, lo vedo insieme a Gabbo. Ma, come dire, solo chi è di molte letture sa che è Gabriel García Márquez, eccetera. Allora, un appunto che io faccio a Chiara è questo, che quando lei giustamente una vita, molte storie, le molte storie si riferiscono anche a molti interlocutori, molti compagni di viaggio, compagni di lotta, in realtà parla di loro come e basta, cioè sono delle microbiografie, mentre invece ci avrei sprecato altri 10 righi per uno, magari avrei cancellato qualcuno, che ne so, Luciana, insomma, tanto la prefazione, e invece avrei raccontato qual è il nesso tra Linda e questi personaggi. Ecco, scusatemi per la lunghezza, ho finito, grazie. Grazie. Grazie. Dopo questa brillante relazione, allora la signora per ultima come ha scelto, tocca a Gianni Tognoni, prego. Anche lui ha condiviso molto più a lungo la vita di Lina. Vabbè, penso che per me, rispetto a, agli altri due interlocutori, è un po' più difficile raccontare qualcosa del libro di Linda. Il libro lo dice tutto, perché avendo vissuto giorno per giorno, prendere distanze e scegliere che cosa commentare del libro di Linda è più difficile. Devo dire che, prima di fare due osservazioni, invece voglio ricordare che ci sono due interpretazioni nel libro che mi pare siano essenziali, ed è raro, secondo me, trovare così in un libro. E sono, uno, non perché dopo parlerà Luciana, ma l'approccio di Luciana a questo libro mi sembra fondamentale, perché in qualche modo, non so se l'ho interpretata bene io, ma è un po' come dire: guardate, questo libro si può leggere soltanto se pensate che sta raccontando anche la vostra storia. Se riuscite a raccontare anche voi la vostra storia, entrate in questo libro. Se pensate di trovare una storia di qualcosa che è successo, non ci entrate. Luciana racconta un po' questa, come abbiamo detto tutti, il bisogno di raccontare l'incontro con Linda al di là del libro, e questo mi sembra importante, questa introduzione. L'altra cosa da leggere, mentre si legge il libro con tutte le cose, io non cito più il libro, è da leggere la postfazione che è fatta da un altro amico di Linda, Sergio Poeta, che è un po' dall'altra parte di questa storia di Linda, e penso sia di un interesse per me, che penso di aver conosciuto Sergio da quando è proprio entrato da ragazzino che andava a fare il fotografo volontario in Brasile per documentare che cosa succedeva per il tribunale Russell II in Amazzonia, il primo che andava a vedere la transamazzonica. Noi lo aspettavamo a casa a sapere cosa ci portava. Lui era proprio un ragazzino che però diceva: insomma, imparare una lingua o l'altra non è un problema. Beh, vedete che tutta questa storia, che è stata anche lunga, di Sergio, tradursi in una lettura di Linda, dei suoi rapporti con le istituzioni, ma soprattutto con tutto un mondo di evoluzioni anche proprio, diciamo così, o ideologiche, di visioni del mondo, includendo anche cosa che è un po' come difficile da mettere nei libri e che si trova raramente nei libri, ma che è stata centrale in Linda, anche tutta quella che è stata la evoluzione, o in qualche modo, diciamo, teologica, nel senso proprio di lettura delle sue radici, perché Linda è rimasta più che una suora, una ricercatrice del Vangelo teologale, qualcosa che, io lo dicevo a Chiara quando ho scritto il libro, è un po' difficile pensare che uno che lavora adesso riesce a reinventare che cos'era, e qui c'è Masina che lo potrebbe dire, che cos'era il tempo in cui tutto questo succedeva negli anni 60, che era il tempo del pezzo prima del Concilio, della teologia della liberazione e di tutta una trasformazione di categorie di giudizio sulla storia, e non soltanto in termini di destra e sinistra, ma proprio di comunità rispetto a stati, di cose che nascevano dal basso e che ricominciavano un percorso di liberazione che riproduceva ovunque nel mondo quello che era stato un'esperienza che poi sarà chiusa, come racconta molto bene un libro come La resistenza perfetta di De Luna, per quello che riguarda la resistenza italiana. Si era chiusa perché aveva inventato una comunità che poteva vivere nella resistenza, come una grande favola, e poi si è trovato spogliato della favola e calato drammaticamente dalla realtà. La storia di Linda e della sua comunità, che è la vera protagonista, e penso che sia il modo più giusto di riconoscere questa storia, è stata una storia di il ruolo protagonista della comunità, non perché fosse qualcuno più o meno importante, ma perché il contesto in cui queste elaborazioni permanenti è avvenuto dall'inizio, io penso, posso dirlo perché penso che mi pare di sì, che la prima riunione che ha fatto questa comunità arrivata dal Brasile, una comunità che era un po' come una scuola di liceali molto preoccupati, liceali o altro, insomma, molto giovani, che ho fatto ad Agape, e che io incontravo per una cosa in cui era una comunità che ascoltava tutto, non diceva niente, raccoglieva e poi dopo elaborava. Ma questa storia è stata fondamentale per sempre, perché ha mantenuto un contesto che via via nella storia internazionale si è rivelato fondamentale per scoprire da parte del tribunale la capacità dei diversi popoli di essere comunità nel momento in cui formulavano il loro progetto di liberazione e di diventare qui da noi la formazione di una cosa in fondo estremamente marginale, come spesso è la comunità, ma estremamente centrale dal punto di vista culturale, come questa esperienza del rapporto tra Linda Leglio tra gli anni 72 e gli anni 78, che sono pochissimi anni, in cui però è cambiato anche, sono cambiate tante cose qua, ma non soltanto per il tribunale, ma perché è cambiata per esempio tutta la vita di Leglio. Leglio ha scoperto in quegli anni, nel senso letterale, cos'era quel mondo globale che anticipava e che diventava il punto di vista sull'occidentale, non viceversa, il capovolgimento di dire guarda che non c'è più un terzo mondo ad aiutare, il contrario. C'è un mondo nel quale nascono delle cose diverse che sono il centro della storia ed è a quel mondo a cui lui era stato affacciato in maniera strana, molto personale, da Linda, che era stata per lui l'incrocio anche con delle comunità qui vicine di Ido, Fausto potrebbe parlarne, perché era il luogo in cui si incrociava un mondo che proprio in quegli anni cambiava proprio le categorie. È interessante vedere che ieri uno sicuramente lontanissimo da Linda, lontanissimo da Leglio, però ancora vive vegeta, che pubblica nei giornali che contano, e che però cita, c'è un articolo di ieri sul Sole 24 Ore domenicale di Ravasi su Congar. Congar per molti di voi è nessuno, no no, per i romani o quelli che c'è, non c'è bisogno di dire a loro o per noi che c'è, ma il dire che Congar è, racconta adesso il ritrovare, e mi pare che quella è la cosa bella che dice quello, il momento in cui si creavano linguaggi che erano veramente diversi e che anche avevano bisogno di non legarsi più al linguaggio politico. La storia di Linda col tribunale, con Leglio, con la Dichiarazione Universale di Algeri, era una storia che continuava la sua o loro ricerca di proprio trasformare i linguaggi con cui affrontare il loro vivere nel mondo come qualcosa che dovesse guardare in avanti e non guardare indietro, e sapere che il mondo si capisce guardando avanti e non continuando a studiarlo indietro, pur sapendo tutto quello che c'era dietro, ma avendo proprio il bisogno di dire che cosa c'è dopo domani, e in questo senso evidentemente aver bisogno di rischiare molto, perché evidentemente si rischiava ogni volta. Io mi ricordo quando Leglio e Linda, io allora ero più giovane ed ero stato mandato insieme a un avvocato belga che era segretaria di Rigaud, eravamo stati mandati dopo il 76 e dopo la conferenza sull'imperialismo culturale, Leglio ci ha detto che bisognava fare una cosa, siccome facevo il medico, sull'imperialismo tecnologico che incominciava a nascere, c'erano tutte queste cose qua, e ci ha mandato nell'Iraq di Saddam Hussein, che era praticamente il segretario del Partito Basso. E mi ricordo diceva, state un po' attenti, ci sono delle cose che non funzionano, perché questa cosa inizia. E noi siamo di giù, e poi li faccio aspettare. Poi, lei diceva, raccomando, Commissione dei diritti umani, non li voglio vedere, se non li vedete. Era qualcosa che era praticamente impensabile, che fosse possibile un... Ed infatti dopo non è stata fatta per un giudizio fatto da noi, ma in maniera tale che c'era l'idea che effettivamente c'erano delle cose al di là della politica stretta dei rapporti che avevano a che fare con delle tendenze internazionali. Ricordiamoci che parlare di imperialismo culturale negli anni 76 rispetto all'America Latina, quando dopo si scoprono Matelare, tutta la comunicazione, parlarne sapendo che con queste persone si parlava proprio come degli amici. Guardate che dobbiamo far parte di uno stesso disegno, nessuno era un esperto. Erano tutte persone con le quali effettivamente si entrava un po' in rapporti. E questo è stato lo stile, penso, di Linda, di Leglio, ma è stato uno stile che, secondo me, è stato possibile perché è stata mantenuta, Sergio lo mette molto in evidenza al di là di Luciana, questa continuità anche di una comunità nella quale non si incontravano idee, ma si incontravano persone. Non soltanto nelle colazioni, io non mi ricordo di aver fatto mai colazione, ho mangiato tante volte da tutta la comunità, ma perché si era un po' di casa, ma se uno dovesse fare l'elenco, molto difficile da farlo per Chiara, perché ha avuto il loro incontro, ma di tutti coloro che hanno abitato in quella comunità, non soltanto passandoci, ma vivendo da altre parti ed essendo sempre in contatto, significa che c'è una compresenza permanente del mondo, i vinti o i vincitori, quelli che sono perseguitati o meno, che comunicano quella che è stata la loro storia, questa storia raccontata a partire dalle persone, per cui uno poteva dire, non soltanto di Gabo via dicendo, ma che a questo punto se si parlava con Galeano da una parte, prima è stato citato Camara o Casaldaliga o Proagno, o c'è un po' tutta la storia recente che è passata per quelle strade ed è passata proprio come persone con le quali si scambiavano le cose che c'erano dietro, non la cronaca. E sapere che cosa c'è dietro e non soltanto la cronaca che viene pubblicata ai giornali cambia tutto rispetto alle attese e a quello che si poteva portare avanti. Mi pare che Linda ha portato questo stile, dicevo prima, come l'aveva portato Leglio, con una, diciamo, un destino un poco previsto, dicevo prima, un destino che è stato di apparente marginalità politica o reale marginalità politica, perché in fondo il Tribunale è un'esperienza marginale. Dal punto di vista di quello che uno guarda, se li guarda nelle parole chiave e guarda tutte le cose pubblicate sui tribunali d'opinione, di cui il Tribunale Russell è stato uno degli antesignani, il Tribunale Permanente è stata la continuità, non si trovano tutte le cose che parlano poi del diritto alla guerra, piuttosto che di tutti i diritti. Il Tribunale parla di una marginalità perché c'è una marginalità del diritto delle persone che è diventata protagonista della storia. E il problema che pone, apposto Leglio alla politica, apposto Linda ancora di più, è la sua comunità, e dire qual è in questa storia che diventa sempre più globale il posto che ci possono e ci può essere per le persone che abbiano il titolo meno, come dice Enrico, per la parte del giornalismo, ma persone che effettivamente vogliono ripetere una storia di liberazione, cioè che non diventano dei funzionari di qualsiasi forma di partito o di qualsiasi religione e che diventano ogni volta dei ricercatori, creatori di qualche cosa che, ripeto, deve essere in avanti. Guardare in avanti oggi è molto difficile, tutti fanno le proiezioni economiche, ma le proiezioni di quello che succede alle persone nessuno le guarda e soprattutto quando le guardano non le documentano. Linda con lei hanno imparato imparare al tribunale che non si può fare nessuna affermazione se non ci sono testimoni che raccontano. Io mi ricordo l'ossessione di questo, le prime volte nel tribunale, adesso è più facile con mail, si può andare. Ma l'ossessione di assicurare a Bruxelles per il tribunale sulle multinazionali in America Latina, forse Sergio se ne ricorda qualcosa, non so chi c'è altro, ma di trovare questi testimoni che venivano e che parlavano. O quando si fa il tribunale sulle Filippine, trovare i testimoni usciti dalle prigioni, bisogna andare a ritrovarli, farli parlare dietro. E andare avanti perché erano loro i protagonisti. Il tribunale è stata il restituire una parola a coloro che vivono la storia non soltanto dalla parte dei vincitori o degli esperti che li giudicano, ma dalla parte della storia di chi fa le resistenze, di tutti i tipi. E Luciana fa molto bene a ricordare in questo delle tappe, non la riprendo perché l'introduzione è da leggere, che sono state un tentativo di portare queste anche in un momento della politica, giustamente dice lei, Berlino, il Tribunale sul Fondo Monetario o altro, poi è diventato sempre più difficile tradurre queste cose come parte di un fondo. È stato possibile al tempo in cui anche Masina era uno dei protagonisti della, diciamo, resistenza rispetto all'America Latina, allargare lo spazio a tante comunità. La comunità e l'allargamento alle tante comunità è diventato difficile, la Lega ha finito anche per scomparire, era molto difficile mantenere anche la Lega per tante cose, perché nel frattempo si cambiava, ma non è più il tempo delle cose raccontate da Linda, è quello che a un certo punto si anticipava, occorreva cercare una forma, la scuola di giornalismo è stata senz'altro una cosa importante, ma anche nel tribunale, e lo sappiamo, trovare, e con Linda se ne era parlato quando si incominciavano delle sedute, l'ultima volta che Linda è entrata direttamente, non per niente, nella vita del tribunale, è stato con il tribunale sulla guerra in Iraq, che ha pubblicato anche con un libro, che in fondo, ma qui sono i giuristi più vari, in fondo è stato il segnale che il tempo del diritto ufficialmente era stato chiuso. Era stato dichiarato che non c'è più spazio per il diritto. Una volta che si reintroduce la guerra come strumento di diritto e si cerca perfino di giustificarla, tanto che c'è bisogno di fare un tribunale per dire che la guerra non è lecita, quanto è l'ABC delle dichiarazioni universali, significa veramente non tanto che è finita la storia, quanto che veramente quello che si era anticipato, che doveva diventare il protagonista, c'è da andare avanti. E in questo senso penso che l'avere delle, e lo si vede in tutti i paesi quando si rincontrano ancora adesso delle comunità come negli ultimi tempi, quelle dei Tamil che vengono fuori, che ricordano qualche cosa, quelle della Colombia, quelli del Messico, e appena si ricordano di queste cose emergono sempre le stesse cose. Laddove ci sono delle comunità di vita e di resistenza emergono gli stessi temi, gli stessi modi di riconoscimento che ci sono stati tra Linda e le tante persone che ha incontrato. Io penso che queste tante storie, evidentemente sono qui dentro, tutte queste storie hanno avuto dei volti. Se voi guardate nelle, potrebbe essere tante fotografie che sono lì dentro, ma una delle cose importanti sono dei volti che sono passati. Quando si vedono queste persone, non soltanto le ragazzine che sono sulla copertina, ma tutti gli altri che sono passati, sono dei segni per gente che non si ricorda, ma per me, per esempio, rincontrare lì uno che era vissuto a Roma, che era stato in comunità, uno come Mario Cuminetti, che per qualcuno... Ma Mario Cuminetti è stato uno che poi viene ritrovato e non per niente poi venivano avanti altre storie di tutti i tipi. Era proprio il modo con cui l'essere effettivamente delle storie, avere delle storie, per quello essere in grado di comunicare le proprie storie, è stata un po' la cosa che Linda ha mantenuto e che penso ci lascia continuamente ancora adesso. E grazie a Chiara per avercelo ritrovato. Grazie mille a Gianni, che è stato certamente il testimone privilegiato in qualche modo, perché più a lungo ha vissuto con la vita di Linda. Adesso, dopo la prefazione... Io devo dire che è stato detto tantissimo, e devo dire anche che sono molto grata a Chiara per questo libro, perché ho scoperto tante cose che di Linda io non sapevo, dettagli di pezzi di storia, di cose che non sapevo. Perché come ho scritto nella prefazione, il mio è stato, come dire, una scoperta tardiva di Linda, molto tardiva, che però per me è stata molto importante, come dire, formativa, anche se ero già piuttosto anzianotta, quindi molto al di fuori dell'età della formazione quando ho incontrato Linda, però dico proprio formativa perché mi ha introdotto, come dire, in una problematica che sì, certo la conoscevo, ma la conoscevo in un altro modo, la conoscevo attraverso le lotte di liberazione nazionale, non nella complessità, come diceva adesso Gianni, il terzo mondo, per qualche cosa che era una cosa nuova che stava crescendo e sorgendo. E come ho detto nel libro, l'incontro ci fu, e questo dico formativo in questo senso. Io venivo, erano gli anni 80, e quella è stata per me una stagione importantissima delle lotte del pacifismo, del nuovo pacifismo degli anni 80. E questo pacifismo europeo, che pure è stata una cosa importante, io continuo a dire sempre che ha fatto più il pacifismo per costruire l'Europa che non 10.000 comitati di giuristi dotti, ma perché ha costruito in qualche modo per la prima volta un minimo di cultura politica comune e di società civile comune che ancora in realtà non era mai stata sperimentata. Però questo pacifismo era molto nordico-centrico, forse perché noi stessi italiani l'avevamo scoperto attraverso il nord. Nacque nel nord il pacifismo. Io mi ricordo che la prima volta che io ho sentito parlare delle basi dei missili fu da Ken Coates, che non a caso era però poi il presidente della Bertrand Russell Foundation, e quindi credo poi che Linda mi abbia cercato anche per questo legame con la Russell Foundation, che era stato di Lelio, e mi disse, sai, ci sono dei... Io ho incontrato Ken per tutta altra ragione, perché per ragioni di sinistra, diciamo, no? Ci sono una base di missili a Comiso, e io pensai subito che Comiso era nel Friuli, prima di tutto perché le basi di missili stavano normalmente, le basi militari, in Friuli, no? Comunisti, dove diavolo dovevano stare, hai capito? Quindi l'idea che fosse in Sicilia era l'ultima cosa che mi poteva venire in mente, e poi anche il nome, no? Comiso, Comso, insomma mi sembrava friulano, vabbè. E quindi... E attraverso il legame con Linda che scoprì una cosa importantissima, che poi facevamo molta fatica a fare capire ai più nordici. Gli italiani veramente la capirono subito, ma i nordici, i tedeschi, gli inglesi fecero più fatica. E cioè che poi l'epicentro dello scontro non era più est-ovest, e quindi non correva più lungo la frontiera che attraversava la Germania, ma era ormai... Il centro del conflitto era nord-sud, e quindi non a caso la base militare con i missili si faceva in Sicilia. E che in questo senso io dico che per me la scoperta di Linda è stata, come dire, e attraverso Linda di Lelio, perché io non ho scoperto prima Lelio e poi Linda, ma curiosamente il contrario, cosa che uno dice, ma è curioso, no? Perché è più facile sapere di Lelio che non di Linda, per una che vive in Italia, che è di sinistra, eccetera. Però, come ho scritto, Lelio era socialista, io ero comunista. Allora, sebbene Lelio fosse un socialista assolutamente anomalo, e anche io ero un po' anomala come comunista, per la verità, però facevamo, come dire, c'era ancora, fino agli anni 60, un percorso in qualche modo, come dire, non ci si frequentava, la vita può dire, insomma, così è. E quindi, e poi questo mi servì anche per scoprire Lelio al di là della problematica del terzo mondo, ma invece proprio anche la rivista, il socialismo, che mi introdusse in una problematica della sinistra europea non ortodossa, è molto importante per la formazione stessa poi anche che è stata in questo senso, ripeto formativo. E allora questa conoscenza è stata subito, come dire, fattiva di lavoro. Linda mi telefonò, mi disse vieni, e mi propose di andare in Brasile, così intanto scoprì il Brasile attraverso la pastorale della terra, perché di questo si trattava, e questa problematica. Linda mi fece fare subito carriera, non ho mai fatto carriera così rapidamente, così come grazie a Linda ovunque io sia stata, perché molto rapidamente diventai vicepresidente della Lega per i diritti dei popoli, il che mi consentì di conoscere poi Adolfo Pérez de Escobar, che ci siamo visti poco perché lui stava in Argentina e io stavo qua, e non è che ci vediamo tanto. Adesso ci vediamo moltissimo, per esempio, perché lui viene spesso, e questi incontri con Adolfo, che quindi debbo a Linda perché risalgono in realtà a quel momento, sono molto divertenti, perché ci troviamo a cena dalle sorelle Truzzi, naturalmente, quelle della comunità del Porcellino, quella famosa che tutti quanti credo conosciate, e con la quale ho mantenuto un legame stretto, e quindi ogni volta che viene Adolfo mi telefona e dice: c'è Adolfo, vieni, e ceniamo nella terrazza che è di fronte alla finestra di Papa Francesco. E parlare con Adolfo di Papa Francesco è assolutamente straordinario. E lui mi dice: devo venire domattina per la colazione Francesco. Ah, mi sono scordata di dire a Francesco quella cosa, ma gliela dico domattina. E così, come dire, è come se Francesco cenasse con noi. E io ho imparato moltissime cose da queste cene con Adolfo a casa, a questa casa che abita proprio di fronte al pezzo dietro del Vaticano. Come dire, anzi, una sera ci ho portato anche, una di queste cene è Nicola Frattoianni, coordinatore di SEL, il quale è rimasto sbalordito di questa familiarità che c'era con Papa Francesco. Ecco, poi con la Lega abbiamo fatto, credo, delle cose importanti che si ricordano poco, mentre invece io credo siano state importanti, in qualche modo è curioso, perché sono state importanti perché ci furono l'occasione di un incontro con i movimenti, i nuovi movimenti, che erano i movimenti anti-global, che stavano nascendo allora e che però dentro in qualche modo segnarono in qualche modo anche la fine della Lega, che era un movimento a sua volta. Perché insomma a un certo punto la Lega si trovò a essere un movimento, questi erano movimenti nuovi, la Lega era un movimento più anziano e quindi fu poi assorbita, però la Lega fu molto importante nel connotare un aspetto di questi nuovi movimenti, che furono poi quelli che vennero fuori poi a Seattle e così via. E ricordo da questo punto di vista i famosi controvertici dei sette più grandi, più importanti al mondo, che poi sono diventati una costante del movimento. Come sapete, dopo si è diventata una cosa tradizionale, si fanno anche adesso, ogni volta si fa. Poi l'ultimo, più importante di tutti, fu Genova, come sappiamo, che ha segnato un'intera generazione. Io mi trovo sempre a dire: io sono della generazione di Genova, ecco, è proprio una cosa che ha, come dire, una specie di distintivo, come quelli che dicevano: io ho fatto sono un compagno del 21, o quelli che avevano detto: ho fatto la rivoluzione d'ottobre, oggi sono qui, io ho fatto Genova, e quindi è un segnale. Ecco. Però quella Genova è stata preparata da queste cose che facemmo e che furono anche molto divertenti, vi devo dire la verità, perché quando fu convocato, Mitterrand convocò il summit dei sette paesi più ricchi del mondo a Parigi e lo convocò nel 200° anniversario della rivoluzione francese, e noi decidemmo di allora di andare lì a fare anche l'incontro dei sette più poveri del mondo, e stabilimmo il nostro quartier generale su una peniche sulla Senna, che diventò subito punto di incontro fondamentale per tutti quanti i giornalisti, eccetera. E fu molto divertente, perché naturalmente la rivoluzione francese è stata certamente importantissima, ma per quelli che c'erano, i nostri sette poveri, proprio no, perché come sapete bene, quella rivoluzione non toccò nemmeno il problema della schiavitù, non toccò nemmeno i problemi degli indigeni, una roba tutta europea e tutta occidentale. E quindi fu con molto sbalordimento che noi facemmo, scrivemmo questa famosa carta che allora devo dire, ma poi a Napoli ci divertimmo ancora di più, perché poi dopo ci fu anche il summit dei sette più ricchi del mondo a Napoli, che coincise con la prima uscita pubblica di Berlusconi, e che E lì fu il momento in cui fu annessa la Russia entrò a far parte, divenne l'ottavo paese più ricco del mondo, perché era già nel 94, e allora noi decidemmo di che noi un ottavo, e quindi mettemmo come ottavo un disoccupato di Pomigliano d'Arco e facevo una grande cerimonia a Pomigliano d'Arco con i metalmeccanici che erano disoccupati per l'appunto, e facevo questa cerimonia in cui nominavo ottavo comunque il nostro. Ecco, è curioso, Linda era curiosissima di tutte queste cose, curiosissima, telefonava, si informava, si divertiva, si faceva delle grandi risate, però non veniva. Io mi sono sempre chiesta perché, perché si sarebbe divertita di più se veniva. E mi sono sempre domandata se questo derivava, che cosa? Dal convento, dall'abitudine al convento, dal fatto che si va a letto presto? Non lo so, mi sono sempre chiesta. E dico questo perché io sono rimasta sempre molto intrigata da questa questione, ecco, del Linda come suora. Io naturalmente mi sono, nella vita pratica mi sono sempre scordata che Linda era una suora, perché a me la parola suora faceva ancora effetto, le suore erano le suore, insomma, no? Non è che era una cosa che si poteva essere suora così, no? Senza, è la prima volta che andai ad Assisi, alla comunità di Assisi, e lì ebbi una spiegazione, Linda non c'era nessuna di voi quando andai ad Assisi, e quindi ero, come dire, più estranea ancora, e lì mi fu raccontata questa storia del carisma. Io francamente, cioè, ateaccia, terribile, non sapevo neanche cos'è il carisma, e lì mi disse che la comunità aveva scelto un aveva comunicato al vescovo che avrebbe seguito il proprio autonomo carisma. E io rimasi tacqui perché non riuscivo a capire che cosa fosse questo carisma autonomo, e però cominciai in qualche modo a capire che questa cosa qua. Ecco. Allora, naturalmente poco alla volta ho cominciato a capire, ecco, la stranezza della suorità, diciamola così, di Linda, di Ruth, di Monica, di tutte le altre amiche e compagne di Assisi, con le quali poi ci siamo riviste molte volte, perché io ho bazzicato molto l'Umbria e quindi le ritrovavo. Ci ho messo un po', e come dire, mi è rimasta sempre però, ecco così, la voglia di approfondirlo di più, cosa che non ho mai osato fare, non mi sono mai azzardata, perché mi sembrava di essere un elefante che andava nel negozio di porcellane, capito? Cioè di toccare una problematica che era delicata, che era difficile, che era, insomma, voglio dire, anche intima per molti versi. E io con la mia domanda, che cosa è un carisma, capisci, ero veramente come l'elefante che entrava nel negozio di porcellana. E quindi non mi sono mai azzardata a approfondire questa cosa, che poi è rimasto un grande interrogativo, lo ripeto nel libro, perché poi, riflettendo alla vita di Linda e a tutte le cose che mi ha insegnato, questo interrogativo mi è rimasto. Perché e come mai? Come è avvenuto? Come è accaduto che a Pisa, negli anni, fra l'altro, che sono stati anni meravigliosi, la fine degli anni 40, l'inizio degli anni 50, quando c'era passione, fiducia, speranza, militanza, Pisa, l'Università di Pisa era un luogo di grande vivacità, eccetera, come mai è accaduto che lei abbia scelto, per arrivare alla stessa problematica e fare in fondo le stesse cose, ma ci sia arrivata da una strada così singolare per me, che era quella di farsi suora. E sapete che vi dico che mi dispiace enormemente che Linda questa sera non ci sia, perché speravo che stesse ancora meglio. E mi ero ripromessa che questa sera avrei superato il complesso dell'elefante nel negozio di porcellana e finalmente gli avrei detto: Linda, ma ce la racconti la storia del perché e del per come? Vabbè, abbiamo chiesto, ognuno si tiene una sua propria spiegazione, però questo è stato, come dire, anche il fascino di Linda e delle altre compagne della comunità, devo dire. Di avere un comportamento così, così singolare, così riservato e al tempo stesso, cioè io ho sempre sentito questa estrema similitudine del sentire, del pensare, del fare, che ci ha fatto lavorare insieme, senza problema mai di nessun tipo. E però questa differenza dell'approccio che non potevo non sentire, che mi ha sempre lasciato questo interrogativo. Voglio dire un'altra cosa sola di Linda, che Linda è la gioia di vivere di Linda e la fiducia nell'umanità, no? Il suo entusiasmo per ogni persona nuova che conosceva, che gli piaceva e che prima non aveva visto, per ogni libro scritto che non aveva prima visto. Ecco, questo ho colto un bel fiore, insomma, un altro bel fiore, questo di essere curiosa nell'intercettarlo, nello scoprirlo, e contenta di della scoperta fatta. E credo che la scuola di giornalismo in realtà sia nata così, perché quella scuola di giornalismo di cui anch'io sono stata docente, come quasi tutti quelli che stanno qua dentro, è stata una scuola singolare, perché era giornalista, una scuola che non dà diploma, infatti c'è molta gente che mi dice, pensi giovani ragazzi, pensi che valga la pena andare a seguire la scuola di giornalismo, e io gli ripeto sempre, secondo me è essenziale. Ma sappi però che appunto quella della LUIS è molto peggio, però poi ti fa accedere a una redazione di giornale a fare un tirocinio che quindi, come dire, dal punto di vista pratico ha una sua, come dire, utilità. Però è vero che questi ragazzi, e Linda credo che si sia entusiasmata, l'abbia sentita in questi anni come la sua creatura più cara in questi ultimi anni, e gli è piaciuta la scuola anche perché trovava dei ragazzi, delle cose, delle persone nuove che non erano più soltanto quelli, diciamo, la ricchissima, come dire, patrimonio di conoscenze, di persone che Linda ha potuto annoverare per le sue amicizie, ma erano facce nuove di ragazzi che scoprivano cose nuove, lei scopriva loro, e devo dire che è una scuola fantastica, perché io poi molto spesso mi è capitato poi di trovarli nella vita, questi che facevano delle cose interessanti, magari senza avere una carriera nelle mani, ma delle cose interessanti, e che venivano proprio dalla scuola di giornalismo. Allora vorrei che brindassimo a Linda. Non ci potete portare la campagna. Grazie mille a Luciana, davvero ci fosse stata Linda si sarebbe divertita. E adesso credo che l'autrice, se desidera, avrebbe diritto di intervenire. Prima, in realtà abbiamo parlato tanto della comunità, cioè abbiamo citato la comunità, ma ne ha parlato un po' solo Luciana. Non ne abbiamo parlato, credo, a sufficienza. Tra l'altro c'è un capitolo molto bello nel libro di Chiara proprio sulla comunità, ecco. E parla sempre Linda, poi ogni tanto, siccome non sono riservate in una stanzetta solo loro due, ogni tanto interviene pure qualcuno della comunità che chiosa, dice, fa, ecco. Allora, io vorrei chiedere a Ruth o a chiunque, perlomeno non di spiegarci cos'è la comunità, se hanno voglia sicuramente anche quello, però perlomeno di dirci una reazione a quello che è stato detto qua. È vero che aveva... Ruth è emozionata, allora chi è che... Quando Linda si è ammalata, è venuta Serafina a casa. E parlando con Serafina, Linda ha detto, io non so cosa mi è successo, però io ho accettato e sono serena. E veramente la serenità è venuta di contagio. Molto grazie. Qualcuno vuol prendere la parola prima che concluda la nostra autrice? Io vorrei dire una cosa, ma... Prego. Anche io. Ah beh, allora bene, bene, bene. Forse lasciamo una... Come come preferisce. Prego, prego. Prego. Voce. Quali voce per i sordi? Non c'è. Ma noi dobbiamo parlare meglio. Sì, sì. Sì, prego. Allora, volevo dire, io sono la mia famiglia si è trasferita a Lucca nel 1950 e se, diciamo, volevo riferire che nell'opinione pubblica lucchese questi fatti, perché Linda Bimbi si fosse fatta fuori, erano molto presenti quando io sono arrivato lì, e c'era come una specie di mitologia, di leggenda popolare su queste cose. E allora, primo, c'era, si diceva che Mazzino Montinari in una specie di crisi terribile di distacco, era stato molto religioso, aveva messo a friggere il crocifisso, questa era una delle cose che si diceva, ora però questo diciamo... Onicciano poi come... Insomma, questo però non è la parte più seria, invece sul perché della Bimbi si diceva che in qualche modo ci fosse stata una specie di disperazione della, come dire, in parte di questo gruppo creato dagli insegnamenti di Giorgio Colli, che si era un po' disperso, insomma, che non, e quindi come se l'insegnamento di Giorgio Colli non fosse stato capito dalla città, eccetera, quindi c'era questo elemento. Quindi diciamo, intanto volevo dire questo, appunto, che era molto presente una leggenda popolare. Mitica, è diventata mitica. Poi un'altra cosa che volevo dire è che questo insegnamento di Giorgio Colli era vissuto come qualcosa di profondamente anticattolico, la città era molto cattolica, quindi c'era stata una forte preoccupazione sulle conseguenze di questo insegnamento di Giorgio Colli. Ecco, questa è la prima cosa. Giustamente. Poi io ho fatto l'università a Pisa e sono stato studente di Giorgio Colli e insomma, quindi ho avuto un rapporto molto approfondito con Colli, ho studiato per 2 anni, ma questo diciamo riguardando il fatto che per me è stata una conseguenza fondamentale per la categoria della grandezza della filosofia greca. Per essere così anticattolico, ha avuto un po' di l'ultima cosa forse mi posso fermare. Grazie della sua testimonianza. Angiolina, volevi dire qualcosa? Sì, volevo con una voce più tonante del nostro. No, volevo proprio dire, volevo proprio tornare alla comunità. Volevo dire che questa è un topos, questa storia di vita non si può leggere appunto senza la comunità, una per una. E che è una storia, un topos della storia della religiosità femminile. Era una comunità che è riuscita proprio a vincere perché era una comunità di donne. E questa faceva anche molto poca paura in un periodo che è stato ricostruito da tutti voi, in cui tutti i cattolicesimi un pochino eterodossi venivano isolati, soprattutto dopo il concilio, venivano ancora più isolati. E se noi pensiamo alle esperienze, non solo con Gà, ma alle esperienze che sono state un po' toccate questo pomeriggio, se noi ci pensiamo, le esperienze di comunità maschili sono state quasi tutte destrutturate. L'altro giorno è morto Arturo Paoli, è morto completamente da solo, Carlo Carretto, questa grande comunità dei fratelli, dei piccoli fratelli, che avevano scelto le stesse cose della comunità di Linda. E questo è stato un po' detto da Gentico, ma è stata la cosa forte della comunità, che si lavorava, che ognuno lavorava e si viveva del proprio lavoro. E tutta questa forza che aveva questa comunità che era così eterodossa, lavorava e che pregava, faceva però poca paura proprio perché era di donne. proprio perché era femminile. Quindi è una delle tante esempi della storia europea occidentale in cui donne fortemente eretiche hanno vinto restando assenti. Ecco perché è importante ricordare e fare e vedere intorno la casa, la comunità e questa cosa strana che dice Luciana, come mai non è venuta vanno presto a letto. È una comunità di preghiera. Questa è una comunità di preghiera che nella cultura della sinistra ha avuto una grande fortuna. Questa è stata l'intelligenza di Linda, la grande intelligenza di Linda. Restare in comunità e incontrare la Fondazione Basso, Lelio Basso. Questo è stato il punto forte della non discretazione. Però è stata una comunità che si è incontrata in quanto comunità di donne. E infatti quel libro è intitolato Cronache di liberazione femminile plurale, molto giustamente. Grazie. Angiolina, Calabria voleva... Tanto io vorrei dire che sono stato orgoglioso di poter fare molto manifesti per i tribunali. E te ne siamo grati. Volevo semplicemente dire questo, che secondo me è doveroso riguardare e riconsiderare le cose del passato dal punto di vista in cui si collocano gli occhi dell'osservatore e quindi dal nuovo tempo. Ora da questo punto di vista, al di là della consapevolezza o meno, per esempio la domanda che si fa a Luciana Castellina mi sembra proprio il punto gravitazionale di tutto il nostro discorso. E devo dire di più, ne deriva anche una dolorosa contraddizione, perché da un lato, voglio dire, questa trasformazione del processo mentale e psicologico di Linda è misteriosa, e Luciana Castellina continua a dire che è misteriosa, ma devo dire che è misterioso sempre l'individuo, la coscienza individuale, perché è quella che anticipa quel piano che poi noi riteniamo oggettivo e ci conviene, perché lì i rapporti di causa e effetto sono identificabili, quindi ne veniamo tranquillizzati. Ma chi può dire per quale ragione misteriosa un individuo si trova all'improvviso di fronte a uno scenario dato per consueto e lo rivolta dentro di sé? È il grande mistero della coscienza individuale. E volevo, senza portare via tempo, concludere in questo senso. Linda in qualche modo appartiene a quell'umanità, vuoi per ispirazione religiosa, ma per ragioni più profonde, perché a me interessa portare sul piano più laico il tutto, voglio dire che c'è, che il desiderio di riscatto di milioni di persone ha creato un gruppo genetico di nome Cristo. Questo è il punto. È come se agiscono volta per volta due soggetti concomitanti. L'uno, l'esigenza umana, l'altro è la garanzia che non si modifichino i fondamentali della dimensione antropologica. Questo mi sembra che venga fuori da tutta la grande, bellissima, meravigliosa vicenda di Linda. Faccio l'esempio e concludo. Questo processo di robotizzazione, che oggi io lo vedo nelle periferie in sostanza, non è un servizio, ma sta invadendo i processi mentali. Bene, questo processo che rischioso di robotizzazione rischia di modificare i fondamentali della dimensione umana. Cioè dire, un conto un uomo che uccide mille persone, è un mostro, ma è umano. L'altro deteriora l'oggetto stesso della grande sperimentazione. Ma allora si cominciano a levare delle voci. Io per esempio, e concludo, fino a 3 anni fa pensavo che l'altro ormai non avesse più ragione di essere. Poi mi sono reso conto che io punto tutta la mia vita per essere l'ultimo colore. Ma perché faccio questo? Perché mi sto rendendo conto che si levano dal mondo forze impreviste, l'imprevisto storico, voglio dire, che determina un nuovo scenario e che riporta le cose dentro il profilo antropomorfo. Per esempio, il modello orrendo, con questa finanza che non ha più rapporto con la realtà, che strabica, voglio dire, ma non sta questa immensa migrazione non riporterà di nuovo, voglio dire, una riconsiderazione di tutto il modello. E dico un'ultima cosa, è questo orrendo terrorismo di ultima data, che non uccide più la tua funzione, ma ti uccide perché esisti, ma non sta in qualche modo già contrapponendosi con la cecità di un sistema immunitario che identifica un antigene. Ecco, quindi concludo da questo punto di vista dicendo che l'esperienza della nostra autrice, di Linda, che è meravigliosa, è piena veramente di segreti, di avventure dello spirito, della mente, ma secondo me anticipa un ritorno all'essere. Che sta avvenendo? Se io chiedo oggi a 100 persone che hanno visto un film, un teatro, che ne pensi, nessuno ti parlerà più di quello che ha visto. Ti comunicano il grado del loro coinvolgimento, ti dicono sono molto contento, sono entusiasta, lo consiglio, ma non ti parlano più di quello che hanno incontrato. Cioè dire, la coscienza dualistica ormai comincia a essere dietro le nostre spalle. Noi non ci percepiamo più come derivato da narrazioni, ma come originanti per certi aspetti. Per certi aspetti diventiamo padre del libro, ma non è questo che ha spinto Linda continuamente ad allontanarsi da certe regole rigide, a cercare di nuovo nel rapporto con la vita, se così può dire, il senso stesso di essa. Ecco, volevo solo aggiungere queste poche cose. Grazie. Grazie. Adesso davvero tocca l'autrice. Credo che fosse già acceso. Aspetta. Oh, prego, scusa, permetti, perché Ettore Masina, abbiamo un importantissimo testimone e non vogliamo lasciarcelo scappare. No, prego, prego, puoi star seduto. E chiedo veramente scusa. No, siamo grati. Il mio intervento è vergognosamente banale. Mi sono perso, credo, in questa stanza un auricolare per la mia sordità. Se per caso qualcuno trova per terra un tipo scarafone, ma più gentile, me lo consegna. Grazie. Mi dispiace che non abbiamo approfittato adeguatamente della presenza di Ettore Masina, che comunque ringraziamo che sia qui. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto. Buonasera a tutti. Non vi nascondo sicuramente la sensazione che provo di essere qui e di essere anche un po' fuori luogo in questo luogo che rappresenta un po' un'istituzione a Roma in ambito culturale, storico, politico e che per me in quanto giovane ha sempre rappresentato, ho sempre frequentato comunque come ascoltatrice di seminari, di convegni o comunque di cui ho sempre parlato, ho sentito parlare insomma da professori ed essere qui comunque anche circondata da voi, insomma da tutte queste persone che conoscono Linda sicuramente meglio da più tempo di me, insomma non vi nego la sensazione un po' che provo, ma in realtà è una sensazione, quella appunto di essere fuori luogo, che ho provato più volte nel corso di questo di questi 2 anni di lavoro che hanno portato alla stesura di questo libro. Fuori luogo la prima volta sicuramente che ho incontrato Linda era il luglio del 2013 e la prima intervista che ho fatto a Linda nel suo studio. Non ero certamente cosciente ancora di tutta questa storia, della grandezza di questa storia, eppure avevo la sensazione comunque di essere completamente vuota di fronte a lei, circondata comunque come era da tutti questi libri che parlavano di diritti negati, di popoli oppressi, insomma di cose importanti che io poco conoscevo. Una sensazione, diciamo, di spaesamento, di essere fuori luogo, che stranamente però è diminuita nel corso di questa ricerca. Dico stranamente perché in realtà man mano che ho fatto interviste con lei, con le compagne della comunità, e con tanti collaboratori che vedo anche qui e che si sono dimostrati molto disponibili nel raccontarmi la loro parte di storia, man mano che appunto questo lavoro si arricchiva, mi appariva la grandezza effettiva di questa storia, piena di fatti storici, di personaggi celebri, di cui poi una volta tornata a casa mi ritrovavo a leggere libri, articoli, insomma, a un certo punto effettivamente mi sono trovata un po' in crisi di fronte a tutto questo materiale. Pensavo che sarebbero serviti almeno 3 anni di lavoro per poter dar conto comunque di una storia del genere. Eppure però vi dico, la stranezza è stata che man mano che procedevo, la sensazione appunto di essere inadeguata per questo lavoro e di essere fuori luogo è diminuita. Non vi saprei neanche spiegare il momento in cui è successo questo, quando è cambiato qualcosa, ma è cambiato in maniera completamente implicita. E a un certo punto io ho capito di essere all'interno di una relazione pedagogica con Linda, e una relazione completamente naturale, completamente pura, in cui in realtà nel momento in cui ho capito questo, la storia di Linda mi è apparsa in tutta la sua pienezza, ma anche in tutta la sua semplicità, come fosse un racconto fra generazioni, una memoria che mi veniva consegnata. E questo sicuramente, questa consapevolezza ha rappresentato anche la svolta metodologica con cui ho affrontato poi tutto questo materiale e questo lavoro. La scelta che ho fatto di raccontare la storia di Linda attraverso innanzitutto le sue parole e poi anche appunto le parole di chi ha vissuto insieme a lei, per me è fondamentale, insomma, non solo perché ho una formazione antropologica e quindi per me l'aspetto della narrazione del sé è fondamentale, ma perché comunque ho ritenuto opportuno mantenere lo stile colloquiale con cui Linda ha scelto di raccontarsi a me, questo stile comunque semplice, che a detta di molti con cui ho parlato in realtà è anche, ha sempre connotato anche il suo stesso modo di parlare delle cose importanti, di farlo in maniera completamente semplice. E niente, in realtà appunto anche questa scelta di seguire appunto il modo in cui lei ha scelto di parlarmi, che ha voluto dire anche magari avere delle lacune in questo, non ho chiaramente tutte le risposte, ho scritto quello che lei voleva dirmi, ho cercato poi di arricchire insomma il suo racconto, cercare di comprendere attraverso appunto l'intervista ad altri. Sono andata a Lucca a parlare con Arturo Paoli proprio per capire un po' meglio anche questo aspetto e questi anni così diciamo misteriosi, però sicuramente infatti anche la scelta appunto di seguire il suo modo di raccontarsi mi ha permesso di accedere lentamente, gradualmente alla dimensione plurale di Linda, all'essere parte comunque di un gruppo. E qui entra in gioco il concetto di anonimato di cui parlava anche il mese prima, che è un concetto fondamentale, ovviamente anonimato nel senso in cui lo intendono Linda e le compagne della comunità, quindi un modo di essere pari fra pari, uno fra tanti, a cui poi si arricchisce la dimensione, si aggiunge la dimensione spirituale. Ma in generale appunto è un concetto che a mio avviso rappresenta una chiave di lettura fondamentale sia del testo ma anche della vita di Linda. E capire questo in realtà mi ha all'inizio gettato chiaramente in crisi, perché insomma come fare a scrivere di una persona che vuole essere anonima? Cioè come fare a scrivere la biografia di una persona che non vuole neanche che si parli di lei, che rifugge gli eventi mondani magari che tanto prepara e tanto organizza e a cui poi non partecipa, insomma come renderla protagonista senza renderla tale? Però in realtà è proprio questo concetto di anonimato che se assunto come chiave di lettura, e questo ho fatto io, può condurre nella storia di Linda per quello che è e quindi come una storia collettiva. è questo che ho cercato, diciamo, di rendere nel libro, ed è questo che è stato possibile soltanto grazie al contributo di tantissime persone. Quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti, veramente, sia quelle presenti, a partire da Ettore Masia, dalla moglie, da Marina Forti che vedo, da Simona Rodatario, tutte persone che hanno deciso di lasciare appunto la loro parte di storia, quindi raccontarmi gli incontri, e ciascuno di loro mi ha dato un pezzetto fondamentale. E, diciamo, insomma, è grazie a loro che man mano la storia di Linda mi è apparsa come una grande storia collettiva. Quindi grazie a tutti. Grazie.